Roberta, abbiamo parlato di Srebrenica, dei tuoi progetti successivi. Arriviamo all'oggi, perché tu terrai dei laboratori a funzione guerriera a Reggio Emilia dal 9 al 13 di marzo. Fra poco sentiremo anche Laura Severini. Su cosa saranno improntati i tuoi laboratori? Il laboratorio è già stato svolto in gran parte, e quando mi è stata fatta questa proposta l'ho accolta con grande voglia di poterlo fare, anche alla luce dell'esperienza che avevo fatto quest'estate con i migranti. Il laboratorio si chiama proprio Madre Migrante. Abbiamo cercato di lavorare con delle donne della comunità di Reggio Emilia, ma lo stesso con donne immigrate che hanno fatto di Reggio Emilia la loro città, e abbiamo indagato due temi: la maternità e l'idea del migrare, ma del migrare o di essere figlie di persone, figlie o figli di persone immigrate. Ci siamo incontrate per 5 volte e la restituzione pubblica di ciò che le donne hanno elaborato avverrà appunto il 12 e il 13 di marzo in un luogo abbastanza speciale, perché è la sala convegni di un albergo, l'Hotel San Marco, davanti alla stazione di Reggio Emilia, quindi un luogo assolutamente emblematico, che luogo di transito. Anche noi che siamo fermi, che magari facciamo lavori più sedentari, possiamo in qualche modo riflettere ed essere mobili col nostro pensiero rispetto alle cose che accadono tutti i giorni, rispetto a questa ondata umana di persone di cui non possiamo far finta che sta andando tutto bene, che le cose si risolveranno. Dobbiamo essere noi che nel nostro impegno quotidiano di cittadini ci prendiamo in capo un pezzettino di responsabilità, ce la portiamo a casa e cerchiamo di risolverla. E cercheremo di parlare di questo, del pensiero che abbiamo costruito, elaborato in questi incontri fatti insieme, e saranno le donne stesse protagoniste della restituzione di Madre Migrante. Roberta, per saperne di più sulla tua attività c'è un sito internet, immagino anche una pagina Facebook, vero? Certo, Babellia, www.babellia.org, la pagina Facebook dedicata a Babellia, e lì trovate gli spettacoli, le cose che sono in giro a fare per l'Italia. Era la prima volta che ospitavo una tua cosa qui al Radioteatro, spero ci siano altri momenti, mi farebbe davvero piacere, ti seguo da tempo. Roberta, un abbraccio. Volete. E a presto. Anche a voi, buon lavoro, ciao. Ed eccoci in collegamento con Laura Severini. Abbiamo avuto in collegamento Roberta Biaggiarelli per il suo laboratorio a funzione guerriera a Reggio Emilia dal 9 al 13 di marzo. E Laura, intanto benvenuta al Radioteatro su Onda Rossa, e poi dici un po' di cosa si tratta. Allora, innanzitutto grazie di avermi contattata. Funzione Guerriera è un contenitore di iniziative che dura alcuni giorni, trasversale, nel senso che tocca diverse discipline. Quindi ci saranno degli incontri, ci saranno delle proiezioni di film, ci sarà uno spettacolo teatrale e l'esito del laboratorio appunto tenuto da Roberta Biaggiarelli, quindi una performance un po' particolare con donne, madri e figlie. L'edizione di quest'anno, che è la seconda edizione, ha come tema la relazione madre-figlia-figlia-madre, quindi vuole un po' indagare un rapporto in entrambe le direzioni, quindi cosa significa essere madre e cosa significa essere figlia. Perché si chiama Funzione Guerriera l'iniziativa? Il nome, questa locuzione ci è stata suggerita da una filosofa napoletana, Angela Putino, perché nella prima edizione l'idea era quella di parlare di autorevolezza, di donne autorevoli, donne che agiscono e che hanno agito nella nostra storia recente, e quindi quella di Angela Putino era un invito a riappropriarci della funzione guerriera che ci è propria. Questo non significa essere guerrafondaie, chiaramente, significa saper attuare costantemente, quotidianamente, grazie anche alla specifica peculiarità della sensibilità femminile, strategie e opposizioni dialettiche, con intelligenza e con autorevolezza. Senti Laura, per saperne di più sulla programmazione ci lasci dei riferimenti internet? Allora, riferimenti internet sono la fanpage di Funzione Guerriera, e poi c'è il sito del municipio di Reggio Emilia, www.municipio.re.it, nel quale è possibile scaricare anche il PDF con il programma. Sì. E poi c'è una, posso lasciare anche un'email? Sì. Allora, funzioneguerriera@gmail.com. E posso, non so, darvi alcune indicazioni sul programma? Va bene. Va bene, allora noi cominceremo domani con un primo incontro dal titolo di Madre in Madre, semi sviluppi di relazionalità materna nella diede madre figlia. È un incontro con due psicologi, la dottoressa Covri del CAV e della cooperativa Madre Teresa di Reggio Emilia e il dottor Carmine Pascarella, psicologo della USL di Reggio. La sera ci sarà al Cinema Al Corso invece due proiezioni. Un docufilm non recentissimo di Alina Marazzi che si intitola Un'ora sola ti vorrei, nella quale lei racconta un po' la storia di una madre che non ha avuto modo di conoscere perché è morta giovane, quando Alina Marazzi era ancora una bambina. E di seguito ci sarà Di madre in figlia, che invece è un documentario leggero e divertente che parte da una domanda, intervista alcune donne anche giovani e meno giovani, partendo da questa domanda: in cosa tu assomigli a tua madre e in che cosa tua madre assomiglia a te? Giovedì 10 marzo alla presso la Biblioteca delle Arti ci sarà invece un altro incontro con Luca Scarlini, che è un, diciamo, studioso, scrittore, performer, conduttore radiofonico, docente, eccetera, eccetera, e ci racconterà attraverso immagini cinematografiche le madri adottive e le madri putative. Alla sera al Teatro Cavallerizza ci sarà Elena Bucci, che interpreterà una lettura in scena dal titolo Il pianeta Diana. Poi venerdì saltiamo, facciamo riposo, e sabato 12 ci sarà la restituzione pubblica del laboratorio Madre Migrante tenuto da Roberta Biaggiarelli con madre e figlie della comunità locale e migrante, e quindi più o meno tutte, siamo tutte coinvolte, presso la sala convegni dell'Hotel San Marco. Domenica ci sarà la replica di questa condivisione pubblica di laboratorio. Benissimo, mi sembra che ci hai spiegato un po' tutto, io ti ringrazio, i riferimenti li hai dati, speriamo di risentirci per la prossima. Benissimo, grazie. Un abbraccio in bocca al lupo, ciao Laura. Viva il lupo! Viva il lupo! Ciao! Ciao.